sono contenti tutti gli altri. Noi stiamo arrivando tantissimi, tantissimi messaggi su SMS, su, non su WhatsApp, su altre cose che ho, proprio di gente che gli è arrivata questa antenna, grazie alle mie informazioni tecniche, grazie alle mie cose, dove sono non contenti, contentissimi. Guarda, quello di Cagliari che gli avevo passato la mia, che aveva già un mese qualcosa, non ha fatto niente, gli ho data smontata, lui l'ha rimontata, gli ho fatto il disegno, ha detto segui così, l'ha rimontata, mi ha detto che la sto usando in banda amatoriale in 10 metri e arriva meglio di una verticale HF. Vai Carlo. Da ieri sera proprio mi sono dimenticato di dirtelo, si è aperta un po' una finestra di propagazione e ho fatto il collegamento col centro della Germania e il Belgio addirittura. In Germania arrivavo Santiago 8, Radio 4, arrivavo molto molto bene, invece col Belgio ho parlato con un italiano, capito, e là gli arrivavo Santiago 9, Radio 5, gli arrivavo a bomba. E per una buona oretta stavo facendo DX in FM sulla 27 MHz e ti posso dire che era una bomba. Stai scherzando, era un'ottima antenna, io l'ho già constatata, ho fatto prove, controprove, ho fatto di tutto e di più e ti posso garantire che sono soddisfatto e rimborsato anche, perché con quello che mi hanno mandato sono veramente soddisfatto e rimborsato, capito? Avanti Gianni. Bella, sono stati riconosciuti, è giusto che sia così, cappa se ti metti a fare rappresentante. Guarda, a me me l'hanno offerto, ma io non sono andato via dal lavoro per rimettermi a lavorare, grazie a Dio non mi manca niente, quello che ho fatto e ho dato è abbastanza, poi ti ripeto, con quello che ho realizzato posso star mai tranquillo e sereno, senza far nulla, più banni, anni, quindi non me ne ha fatti più nulla, però ho fatto una cortesia, mi hanno ringraziato, rimborsato e qualsiasi cosa, perché adesso siamo sentiti proprio stamattina col capoario, ho detto ma la Smartec fa per caso degli strumenti di misura tipo il metro watt, il metro per HF, per cui noi facciamo tutto, anzi adesso chiamo il responsabile dalle vendite e ti faccio sapere. Adesso sicuramente domani o stasera, perché mi ha detto l'ora di cena, o domani ti faccio sapere se ha qualche strumento buono, ti faccio vedere qualche strumento della Smartec che ve ne beccate le dita voi. Ah beh certo. A me quello che interesserebbe è il commutatore d'antenna, ma di quelli buoni però, non di chi si... Ho comprato quello della ZG, ce l'ho dovuto buttare, l'ho anche aperto per vedere che difetto poteva avere, appena comprato, mi faccio mandare tutto... la lancetta del coso delle stazionarie andava a fondo scala e usciva fuori dall'apparatura l'ago, capito? Tutto in tilti mi faceva andare e non capivo cos'era, ho cambiato spezzone, ho cambiato questo, ho cambiato l'altro, sai benissimo che io controllo tutto quando succedono queste cose, poi alla fine mi viene voglia di attaccarmi l'apparecchio senza il coso. Praticamente in diretta non succedeva nulla, andava bene e quindi era quello che rompeva le scatole, il commutatore della ZG che si era giubilato e si era giubilato un gasoletto, guarda nuovo, non si è trovato manco la fusata, dirgli guarda non funziona, non me ne ha fregato nulla, mi sono incazzato talmente tanto che ce l'ho buttato. Sì, ma è così Gianni, è così, no, non ci sono problemi, la ZG fa delle belle cose ma fa anche delle tante cagate, tipo i commutatori d'antenna che sono al primo posto delle stronzate che hanno fatto, poi per il resto può anche andar bene, capito? Ha fatto dei buonissimi alimentatori, ha fatto tantissime cose belle, dei bellissimi rosmetri, vattimetri, tipo il 700, quello là incrociati, tante cose. Però come un tettore d'antenna da paura proprio. No, io ho quello alla live a quattro vie. Ho quello lì. Avanti Carlo, datemi un secondo che riprendo subito. Sì, sentivo Gianni, magari era fatto male, ma c'era qualche contatto, sicuramente, quello era difettoso. Se l'avessi portato magari a chi te l'ha venduto potevi chiedere anche il rimborso, perché quello bastava vederlo con qualche strumento e sicuramente era difettoso. Carlo, l'ha fatto anche all'altra gente, lo stesso commutatore comprato nuovo e ha fatto lo stesso lavoro. Erano tutti difettosi, io l'ho aperto per vedere se c'erano contatti, se c'era, era tutto a posto, cioè non aveva niente fuori luogo. Ho controllato col tester e mi mandava tutto a massa, capito? Allora vuol dire che hanno usato materiali non idonei, capito? Quindi niente, non, allora non vanno se mi dici così, purtroppo si è incappato male, pazienza, dai, importante avere risolto in diretta senza il commutatore. Io due ne ho avute fregature, l'antenna che ho comprato che mi si è troncata in 2 anni 2 volte e poi questo commutatore d'antenna, che queste 2 fregature le ho avute, e quella più grossa è stata quella dell'antenna che ho pagato 200 euro e mi ha deluso totalmente, pensando che fosse il top delle antenne, tutti la vantavano, facevano, invece il materiale, cioè l'interno è buono, l'interno senza ombra di dubbio dava dei buoni segnali e tutto, ma il materiale esterno è quello che non serviva, no? Purtroppo ho sbagliato, stavo per prendermi la Grazioli come antenna e poi ci ho ripensato perché ho visto molta bulloneria e questa cosa sarà anche difficile da piazzare, c'erano bulloni, bulloncini, viti di tutto e di più. Lui mi sta piazzandola. Capito. Aspetta che rilanciamo Giovanni, così gli chiedo che tipo di antenna ha, visto che l'ha messa in orizzontale. Ci sei ancora Giovanni? Un dipolo orizzontale. Però vabbè. Si è ordinato l'antenna, adesso li dovrà arrivare. Fra 3 giorni gli arriverà sicuramente. Sì, tanto se ormai gli ordini sono così, 2-3 giorni lavorativi ti arrivano, se arrivano da fuori sì, così risolve, perché così è un peccato, perché di segnale diciamo è accettabile, mi arriva a Santiago 7, ma la radio è bassa bassa, lo capisco a malapena. La radio è anche amplificata e c'è anche l'eco, io la sento con l'eco la radio. Vai Giovanni, fai un passaggio a vedere come ti senti. L'ho sentito 1, 2, 3 prova eccetera, però è basso basso basso, lo tiro con le pinzette, capito? Però se Giovanni, se hai ordinato un'altra antenna, magari la metti dritta dritta in verticale dalla zona dove sei, già dovresti arrivare a bomba qua, sai. E ho ordinato la vera, non so se tu la conosci, è piccola come antenna ma funge bene. Come già? Ho ordinato una Venom, non so se tu le conosci, sono antenne piccole, però c'è la Franco California, va benissimo, va da tutte le parti, esce bene. Beh, è importante che sia già stata utilizzata e abbia dato buoni risultati, del resto si va così, con le conoscenze tu dici, io ho fatto così, l'ho presa da Claudio, mi sono letto sul sito della Smartec le caratteristiche e ho detto che me lo fa fare ordinarla, la prendo da Claudio, me l'ha data già tratta è già, era al 70% già tutta montata, capito? Quindi l'ho messa in macchina, c'è stata dentro la macchina, poi ho inserito, come mi ha detto lui, gli stilo finali, è perfetta, bella dritta, e anche quando fa vento non si muove, perché è praticamente è a J, e tra uno stilo e l'altro c'è una giunzione, capito? Quindi è bella stabile, e solo quando va c'è molto vento si muove appena appena la parte del tratto finale, capito? Ondeggia appena appena, però per il resto, anche col vento forte che ha fatto la settimana scorsa, era bella ferma. Sì, anche la mia è così, però l'altra che ci avevo si piegava come quando prendi un tonno, ce l'hai presente? E addirittura quello che abita nell'attico è venuto a suonare il campanello, guardi che l'antenna si sta spezzando, no, ho detto, legge un vento a 160 km orari, così c'era scritto, così c'era scritto nel libretto. Ah, la troncata, quel vento, l'ultimo vento che ha fatto, la troncata, proprio, cioè, per due volte si è troncata, la prima volta si è troncata, gli ho messo tre fascette, l'ho fatto entrare un bottin dentro, gli ho messo tre fascette in acciaio, e lì non si è più rotta, si è rotta più su, adesso basta, ho preso, l'ho regalata, ho dato a un amico e gli ho detto, aggiusta e te la piazzi, non me ne ha fatti più nulla, quando comincia così io mi rompo le scatole e il mio problema lo risolvo comprando la nuova e ho capito. Io non sapevo che Giovanni dovesse acquistarla un'antenna, se no gli avrei dato quella che ho tolto io, che è sempre un dipolo, però piazzato in verticale va molto bene, capito? Andava molto bene, perché io comunque da qua, quando l'ho girato da orizzontale a verticale, arrivavo tranquillamente ad Alghero, Porto Torres, Sorso, Muros e oltre, capito? Quindi se gliel'avrei anche regalata volentieri, tanto ce l'ho in garage giù e a pezzi, e prima o poi a qualcuno la darò, perché è praticamente seminuova, capito? Capo, ma come l'avrei fatta? Come la canna da pesca? No, comprata fatta in alluminio e della Sirio come antenna. Ah, ecco, è della Sirio, capito. Vabbè, comunque, e quella lì si piazza in verticale o in orizzontale normalmente? Come vuoi, come preferisci. Io l'avevo piazzata in orizzontale perché ero interessato, ho detto voglio vedere se riesco a fare qualche DX, e ci sono riuscito, sono arrivato pure in Indonesia da qua con la propagazione, ma non ho sentito sin là, e un sacco di altri posti, però nel traffico locale non uscivo molto bene, e allora poi l'ho girata, perché si può girare, no, essendo rigida come dipolo, lo puoi girare sia in orizzontale che in verticale, quindi sentendo un po' i vari controlli mi dicevano girala, tanto qua siamo tutti con le verticali, e per cui tu arrivi basso per quello. Poi come l'ho girata uscivo perfettamente, capito? Però se la metti in orizzontale e fai un DX e incontri un'altra antenna messa allo stesso modo in orizzontale, non ce n'è per nessuno, perché quelle sono direttive e vanno molto bene, solo in quei casi lì. Però sì, è vero, quelle antenne lì vanno bene, lontananza e vicinanza no, perché sono omnidirezionali, capito? Voglio dire, sono verticali, non omnidirezionali, e quindi solo in quella zona riescono a prendere le onde, davanti e dietro e basta, sui lati no. Quindi vabbè, sono limitate, dai, come antenne, sono limitate, è molto meglio un'antenna come quella che c'è adesso, e arrivi da tutte le parti lo stesso, non ti preoccupare, perché io con l'altra antenna che c'avevo, con la Mantova, parlavo con tante nazioni, tanti paesi, capito? Non c'avevo problemi di nulla, solo che la macchina va pure con la che vanno rotte radiali, se no sarebbe stata ancora piazzata la macchina, perché ce l'avevo 12 anni, l'avevo scesa una volta solo e avevo lucidato tutti quanti gli elementi, ripiazzata, rivulcanizzata tutta quanta e poi ripiazzata ed era come nuova, brillava da giù, si vedeva brillare perché l'ho tutta lucidata con la lana d'acciaio. È un bel lavoro allora che avevi fatto, sì sì, indubbiamente la Mantova era al top, è sempre stata e ancora va bene, come antenna non ce n'è, già è buona anche quella. Il problema che ha i radiali e quindi ha bisogno anche di più spazio per poter andare in maniera ottimale, capito già? E io quella che ho è come la Mantova, cioè è come la Mantova 1, c'ha 4 radiali molto lunghi, è uguale alla Mantova, solo il sistema dei radiali che è fatto diversamente. La Mantova si entrava dentro quel buco, non so se ti ricordi, c'era si bloccava con l'ondadino e basta, invece questa qua non so se mi spiego, si racchiude fra due cerchi i radiali e poi vanno messi i bulloni passanti, capito? Sì, già l'ho vista come è fatta quella sui vari, diciamo, cataloghi che girano, ho visto il cerchio che c'è dove sono attaccati i radiali e ho capito, forse è meglio così, è più stabile magari. E la parte finale è tutta in acciaio, capito? Tutta in acciaio, quella che si arrugginiva della Mantova dove attaccava il piede, lì è tutta in acciaio, quindi non dovrebbe dare problemi. La Mantova si arrugginiva lì, tanto è vero che col turno gli avevamo rifatto il pezzo uguale e praticamente gli avevamo ricostruito quel pezzo perché era tutto fradicio e l'abbiamo rifatto col turno. È uscita proprio perfetta, uguale come la prima. Lo credo, praticamente ricostruite le parti che si erano rovinate, fatte nuove, poi l'antenna è come di fabbrica, capito già. E poi quando l'avevamo scesa, il cavo che c'ha centrale, quello che deve tenere i watt per intenderci, quello lì l'abbiamo messo più grosso, di modo che te leva più watt. Tu non sei in condominio? Sì, sono in condominio io. Io abito in via Mores, problemi non ne ho. Abito dietro via Baldetta, lì in condominio. So dove via Mores, via Baldetta ci ho fatto l'infanzia, ci abitava mia nonna all'inizio, però di via Baldetta. Via Mores c'era mio zio, adesso c'è mia cugina lì in via Mores. Probabilmente conosco pure. Sì, lì già è una buona zona comunque, perché via Mores è più alta di via Baldetta iniziale, capito? Ma hai visto come scende la via? C'è la discesa, poi scende, rimaniamo un po' infossati. Solo che verso il mare io sono favorevole, capito? Quella zona favorevole, quella lì. Per il mare favorevole, sino a Padesi, l'Isola Rossa, tutta quella zona lì. Io parlavo con un camionista che veniva dall'Isola Rossa, tranquillamente. Sì, sì, vuol dire che si è aperto verso quella zona. Praticamente da lì è tutto campagna là dietro, dove sei tu. Sì, vabbè, se stanno costruendo, hanno fatto Sassari 2, però lì prima era tutto quanto libero, tutto il vetro e cose. La mia zona è Badimanna, è Badimannitta. Capito, anche se favorevole per il mare. Tutta quella zona già è una zona aperta e è leggermente più alta anche di Sassari 2 lì. Sì, quello sì. Vabbè, comunque è già una bella zona, dai. Ho visto che l'altro giorno mi sentivi anche a Borba, quindi va bene. Prima per i paesi non ero molto più la zona del mare che nei paesi. Sì, che ti sentivo. Io penso che quando abitavo a Bonorva collegavo quasi tutti i giorni Badesi, come se fosse dietro l'angolo, eppure da Bonorva è distante, perché sicuramente avevo qualche posizione favorevole per quella zona lì, perché ci parlavo tranquillamente, quasi tutte le notti accendevo la radio, mi chiamava ed era sempre questo amico di Badesi che modulava, poi non l'ho più sentito ovviamente. Solo quella zona lì però, solo quella zona di Tempio eccetera, niente. fare? Io a Bonorba c'ho anche lavorato, c'avevamo il negozio lì a Bonorba all'entrata, non so se hai conosciuto il Tourism Market, quello di fronte alla caserma dei carabinieri. Esatto, sì. Sì, sì, che è già la conosco Bonorba. Cava cava. Vabbè, anche a Chiesi ce l'abbiamo, dove c'è il cinema a Chiesi, non so se ce l'hai presente. Sì, sì, sì, conosco bene, perché il cinema che c'è a Chiesi c'era anche a Bonorba, identico, praticamente li aveva fatti lo stesso ingegnere che aveva fatto il moderno, quello di non il moderno, quello di Viale Umberto, come si chiama? L'Ariston. No, l'Ariston di Viale Trento, il moderno è Viale Umberto. Il moderno, erano identici, le copie identiche più piccole del moderno, sia al cinema di Chiesi che quello di Bonorba, quando c'era gente ovviamente il cinema faceva il pienone. Poi noi avevamo preso il locale del cinema e avevamo fatto il negozio lì, e adesso mi pare che non ci siamo occupati più, né a Chiesi né a Bonorba. Io vabbè sono in pensione, non ci sono più, però ce l'avevamo lì anche. Sì, a Bonorba c'è sempre lì un negozio, adesso non so se un altro market, però c'è sempre, perché più o meno ci vado ogni 15 giorni io circa, e vedo che è aperto, poi non so che market sia, perché non mi fermo mai. Sì, vabbè, ma il Tourism Market di Bonorba non c'è più sicuramente, l'avevano chiuso mi pare, se non è che hanno cambiato idea, però lo dovevano chiudere. Diciamo che avevo una bella catena di negozi, dai, eravamo a Chiesi, a Bonorba, a Stintino, ne avevamo due, poi a Platamona, ne avevamo due a Porto Torres, anzi a Porto Torres ne abbiamo più di due, ne abbiamo tre, e ne avevamo quattro, cinque ne avevamo a Porto Torres, poi due li abbiamo chiusi perché era inutile tenerli aperti, perché ce ne avevamo uno vicino all'altro, per cui quelli clienti che andavano in dei negozi separati andavano tutti in uno e erano fatto il gioco. Ho capito, quindi già ne hai girato anche tu di paesi del circondario, Gianni? Sì, ma diciamo limitato, dove avevamo i negozi andavamo, perché io facevo l'autista, poi vabbè ho avuto dei problemi e mi hanno fatto lavorare in piano vendita, in pescheria, poi agli scaffali eccetera, e un po' sono stato lì, capito? Quindi poi alla fine non ce l'ho fatta più e sono andato via. Yeah, bene mera, quindi adesso sei a riposo. Io ancora ne ho un bel po', da un'altra decina d'anni, 9. Se rimane così devo arrivare a 67 anni, e quindi me ne mancano 9. Se poi dovessero fare la riforma che mandano tutti a 65, allora me ne mancano 7 e passano prima così. Io praticamente c'ho uno scivolo di 5 anni, vado via prima, capito, pensione. Vabbè, adesso me la devono dare dal 1° di agosto la pensione per le proprie, adesso c'ho la pensione di invalidità, dai. Sì, ho capito, la raggiungerai più avanti l'altra, ho capito. E vabbè, si fa quello che si può, Gianni, io ancora me ne devo zappare, dai. Sì, vabbè, io ho avuto problemi, mi hanno operato un femore, mi hanno messo la protesi alla gamba, quindi era un po', capito, non stavo bene, non, ho dovuto mollare, anche perché avevo un'ulcera sotto al piede che non mi voleva passare, poi grazie a Dio mi è passata, però dopo 5 anni ti puoi immaginare cosa vuol dire camminare con un'ulcera sotto al piede. Immagino, beh, problemi grossi sono quando uno non può circolare liberamente. Io lo stesso in famiglia, non io personalmente, ma ho avuto mia moglie che ha avuto l'operazione al menisco, prima in un ginocchio e poi nell'altro, quindi quando gli faceva male non riusciva neanche a scendere dalla macchina, praticamente doveva prendersi la gamba, sollevarla e metterla giù in strada, e poi l'altra scendere così. Alla fine non ce l'ha fatta più, si è fatto operare prima a uno e poi all'altro. Anche quello ha avuto l'operazione al menisco. E quindi ti hanno fatto l'anestesia in artroscopia anche a te? Sì, l'ho fatto al Alghero, io l'ho fatto. Sì, ho sentito tutto, anche quando hanno usato il martello per bucare l'osso o per far uscire il liquido. Passò lì al marino, anche mia moglie, tutte e due lì dove c'era professor Buddha che operava e quell'equipe lì. Buddha a me mi ha operato, proprio lui, sì, proprio lui. Non riuscivo a farmi operare qua a Sassari, ho pagato la visita da lui e dopo una settimana circa mi ha chiamato. Perché purtroppo è così, io lo stesso, mia moglie, per velocizzare, ho detto vai ad Alghero, ti fissi la visita e ti opera lui direttamente, così è stato anche per lei, per uno e per l'altro. Sì, no, anche io, e grazie a Dio non mi posso lamentare, mi ha operato, non ho avuto problemi. A volte che tocca là, che stiamo buttando, e vabbè, ci stiamo conoscendo meglio così, dai. Vediamo se c'è qualcun altro in ascolto che vuole entrare. Claudio, ci sì, Claudio deve essere andato ad altre frequenze. Ho sentito qualcun altro basso basso, però no, non sono riuscito a capire. Lo senti Gianni? Sì, lo sento qua. Un attimino solo che sto prendendo il ricevitore, un secondo. Chi è? Chi è? Avanti, chi è? Chi è che chiama? Avanti. E mo non sta parlando più. Sì, sono sull'altra, Claudio, ho sentito. Vedi. E io stavo prendendo il ricevitore a vedere se c'erano lì. Sì, ho sentito là. Ci stanno parlando. E adesso devi prendere la patente anche tu. E io se avessi avuto la possibilità di frequentare tutto un corso, volentieri l'avrei anche fatto da tempo. E purtroppo lavorando coi turni non riesci a seguire corsi e niente, perché sei 4 giorni di mattina, poi sei di sera e non te li fanno i corsi quando vuoi tu, capito? Ti prendi il libro, studi dal libro, quando c'hai tempo lo fai. Se vuoi fare già lo puoi fare, dai. Lo studi dal libro senza andare a fare i corsi. Già sei intelligente, ne hai preso diversi di cose, di patenti, di cose, quindi vuol dire che già sai il fatto tuo, dai. Ho sentito che hai preso anche da poco una patente per l'aeroporto. Dai, siamo sempre con gli esami, là ogni tanto siamo tutti con abilitazioni, eccetera. Noi dobbiamo fare sempre l'aggiornamento ogni 5 anni, e quindi dobbiamo fare prima un corso e poi l'esame con l'ENAC. Mi sa che è un po' da tutte le parti così, anche noi facevamo corsi diversi, ma li facevamo HACCP, corso di antincendio, corso di pronto soccorso, corso di comportamento con i clienti, sapersi rapportare col cliente quando arriva e ti chiede una cosa, non di beh, è là, devi accompagnarlo, fargli vedere dove è la roba, non come fanno certi, è là, capito, là dove, là, nel terzo reparto, tu dovevi cercare, no, devi accompagnare il cliente. Capito, quelli li facciamo anche noi, il trattamento di pazienti con ridotta mobilità, come ci dobbiamo comportare, ma quelli sono corsi che facciamo online, ovviamente ormai con l'era moderna li facciamo online, ci colleghiamo, c'è la piattaforma, ci sono i vari step e poi alla fine fai il test finale e ti danno l'abilitazione. Invece noi le ricertificazioni che dobbiamo fare sono l'ENAC, perché c'è l'aggiornamento al piano nazionale di sicurezza, tutte normative, leggi, c'è quello, poi tutti i macchinari radiogeni, perché abbiamo gli antiesplosivi, quindi macchinari che sono un po' particolari e quindi ogni tanto si devono aggiornare e anche a noi ci costringono in 5 anni a fare le ricertificazioni, si chiamano. A me, guarda, adesso studiare non ne posso più, ne ho fatto troppo, ho fatto corsi lì allucinanti, perdere ore, entrare dalle 3 di sera invece che entrare alle 5:30, mi toccava entrare alle 3 per fare il corso, e ne abbiamo fatto il corso anche quando è cambiata dalla lira all'euro, sono venuti dalla banca a farci corsi eccetera eccetera, per farci capire com'era la situazione eccetera eccetera, e insomma Mi facevamo i corsi, poi per camminato le cose è sempre un po' un problema, questi corsi di HACCP che fai, abbiamo fatto anche, come si chiama, i corsi per sapere la temperatura dei frigoriferi, la continuità del freddo, tutte queste cose qua. Ui, guarda, va a farti la testa a capo. E io tutti quei corsi lì, in passato ho avuto una licenza dalla Camera di Commercio e si doveva fare l'esame. Io però l'esame non l'ho mai fatto perché mi davano direttamente tutte le licenze che volevo, perché sono diplomato in ragioneria alla vecchia scuola, capito? Quindi ero perito tecnico commerciale, per cui siccome noi abbiamo fatto 2 anni di merceologia, quindi la conservazione, la refrigerazione, tutti i metodi di conservazione, anche l'affumicamento, tutto ci facevano fare a scuola, per cui quegli esami lì non li abbiamo mai fatti, però già mi ricordo che erano un sacco rognosi quel settore lì. Scappa, vediamo un po' se vuole entrare qualcuno, avanti se c'è qualcuno che vuole entrare. Ma io sto ascoltando, mi viene da ascoltare per oggi. Buonasera. Oh, non ho capito nulla. A me mi viene da ascoltare, ciao. Sono Cristian. Ah, ciao Cristian, ciao, ben sentito. Là. Come sei entrato non si è capito nulla di quello che hai detto, adesso ho capito chi sei tu. Buonasera, se vuoi restare non c'è problema. No, sto ascoltando, sono fermo in macchina, sto ascoltando, perché faccio un po' di zitto, netto di che. Cavagava, va bene, dai, vedi tu. Vabbè, io che ore sono? Le 8 ci sono. Vabbè, comunque sì, beh, bene o male, la formazione devi averla da tutte le parti, o come si chiama, o Claudio, bisogna essere un po' informati su tutto. Lo credo. Ciao Cristian, buonasera, se non mi hai sentito, Carlo da questa parte. Ti sento forte e chiaro. Sei in macchina, Cristian? Sì, sono in giro in macchina, che ho fatto fare il vaccino, cioè il vaccino un po' di risito. Capito, sì, da queste parti mi arrivi a fondo scala, Radio 5 e fondo scala per te. Ah, già va bene così, dai. No, vuol dire che l'antenna si è messa a posto da sola, va. Bene, va bene, noi siamo in chiacchiera con Gianni, prima c'era anche Claudio, poi penso che sia andato in altre frequenze e ci aveva lasciato soli, stavamo facendo 4 chiacchiere con Gianni. Prima c'era anche Giovanni, però non l'ho più sentito, vediamo se c'è ancora in ascolto e lo rilanciamo e così mi dici se tu riesci a sentirlo, Cristian. Avanti Giovanni, se sei in ascolto ancora. Negativo, deve aver chiuso. Vai tu, Cri. Gianni, lo sai cosa c'ha conservato? Cosa c'ha in stipato Giovanni? Claudio, ma Gianni. Ti deve essere spostato allora, Gianni. Mi sono spostato perché sentivo qualcuno di splattere e ho capito chi è. Cattagna radio, boh. Guarda, sono sotto da Giovanni, io ho visto le radio. Ah, un bel giocattolino, identificatore anche. Allora, fissa, tu lui la colpa non era la tua, riceveva uno splatter e si mischiava la tua voce quando parlavi, per quello che non capivo nulla. Va tranquillo, ah, il B202 anche, conservato lì, Giovanni di Patavola. Con l'antenna però è messo molto male, Giovanni, si è messo il dipolo in orizzontale, non arriva bene. Oh, guarda, io ho visto Giovanni, è una zona abbastanza aperta per Sassari, che è abbastanza aperta, poi c'è un cappallone alto che lo tappa, capito? Può essere anche quello, capito, magari gli spara le onde sul capannone e non riesce ad arrivare, perché di segnale diciamo è abbastanza buono, ma da qua, da Platamona, mi sarebbe dovuto arrivare a bomba lui. Ha un capannone dove abita lui, sopra la casa, che c'è la casa che mi sa che sbatte l'onneria e non lo fa uscire bene, però ho visto che c'è un bel apparato fisso, a base fissa, che è un bel apparato, poi c'è anche il B2002 come questo amplificatore? Sì, come radio è attrezzato bene, è l'antenna che non va bene quella. Beh, si mette l'antenna dove c'è il sopra il capannone, se non esce una bomba. Lo credo, poi se ha tutto quello spazio libero, a Platamona non è che ci sono palazzi alti o c'è la pinetta forse più alta dei palazzi, capite, non ha niente, quindi da lì a Sassari dovrebbe arrivare proprio fortissimo. Sì, sì, la zona come zona è bella aperta, non c'è niente di ostacoli. Per se ragazzo del sardo e cose, è tutta aperta, apertissima per tutto quello che lì. Ho capito, Cri. Bene Meda, io purtroppo devo chiudere adesso perché vedo che l'ora tarda e mi chiamano per decidere la cena. E io adesso se domani vado a lavorare perché ho fatto il vaccino stasera, faccio un po' di un insitto, se ce la faccio domani vado a lavorare, se non ce la faccio pace, non ci vado. Ok, io chiudo adesso, saluto chi è in ascolto, Gianni ti saluto, grazie della chiacchierata, Cristian ci sentiamo alle prossime, se magari dopo cena ci siete entro un attimino intorno a 8:30, 9 se c'è qualcuno, se no a domani. Ehi allora, ci sentiamo Carlo, buona serata, buona carica quando la fai. Ciao Cristian, ciao a tutti gli altri amici che sono in ascolto, faccio cuoretti anch'io e vado a portare il cane. Dai. Ciao a tutti, buona serata. Ciao ciao a tutti ragazzi, buona carica batteria per tutti, dai, anche gli ascoltatori. Ciao a tutti, buonasera. Ma vaffanculo, ga. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Attenzione binario 10K. Prova tu un attimo. Hola, mi senti? Alla grande, fortissimo. KK, ok. Andiamo andare. E allora? Ascolta, quanto ce l'hai il Michigan? Quanto è? Quasi a 4, dai. Michigan, quello nero? No, era quasi a 4. Era a 2,5, neanche a 3. Ma a 2,5 non ti vuoi andare. Adesso l'hai messo tu a 4. Eia, me l'ho messo come va bene a me, capito? Va bene, va bene. Processore inserito, tutto a posto. KK. Allora provo a passare in FM. A vedere. Vai, aspetta, passa in FM. Pronto? Ci sei? Ecco qua. Adesso sei fortissimo. KK, normale, così quanto arrivo? Così sei 9:20. 9:20, devi abbassare appena appena il Michigan tu. Mi sono sicuramente in grado. Ecco qua, allora va meglio. Adesso sei fortissimo, ottimo. Ma sono dimenticato, scusa. Oh, quindi FM a posto, vado a terrare a posto, AM a posto. Ci sei? Capa che ci sono. Oh, finalmente, abbiamo fatto strike. Vabbè, succede. E io non c'ero niente, mi hanno tu. C'ero niente, c'erano a fare letteratura e basta. E quella cosettina dell'FM da fare quella regolazione che ti ho detto. Niente di che, non è stato fatto niente di particolare. Però adesso almeno è precisa, va. Ma no, già andava, dai. A voglia, va bene. Non c'è problema. Ottimo per la tuppa. KK. Ma ti volevo fare una domanda, ti volevo fare io. Questo 4:40 ha una batteria dentro. Sì, tutti ce l'hanno, c'è una batteria tampone si chiama, che serve per memorizzare le memorie, capito? Per mantenere la memoria, una volta tu memorizzi mantieni la memoria, se no una volta, ogni volta che l'accendi, la spegni e poi vai a accenderla, si azzera. Ah, ho capito, quella si cambia ogni tanto. Sì, ci vogliono anni prima di consumarsi. Io al 140 l'ho cambiata dopo, sarà 6, 7, 8 anni, ma non fece via cambiare quella roba lì. Grappa, grappa, è buono. Eh beh, serve per mantenere, visto che tu c'è la sezione delle memorie, dove c'è scritto M.CH, quella è la sezione delle memorie. Quella sezione della memoria, e quindi inserendo quella lì, una volta che l'avrai memorizzata, ti tiene le memorie. Se la batteria tampone è esaurita, le memorie non te le mantiene, quindi ogni volta che tu spegni la radio e poi vai a accenderla, se ne va in 20 metri nella banda centrale a 14.000 MHz, se ne va. E suga, che va mai a dada? Quale banda io non mi sono mai transitato, non so manco la gamba di cominciare. Vabbè, tutti bene. Rimaniamo qua al 27. Va bene, Anto, le prove le abbiamo fatte, sono contento. Che sei contento, vado a mangiare che ho fame. Ciao. Ciao, ciao, grazie, ci sentiamo. Ciao, ciao, Anto. A più tardi se coincide, ciao.